visto che però tutti quanti continuano a chiedermi, evidentemente non sono ancora troppo chiaro, che cosa ne faccio di questi soldi? Questi soldi vanno nel fondo dei desideri. Il fondo dei desideri è quel luogo in cui io sto raccimolando denaro per poter fare tutte quelle cose che voglio fare da tempo e che quasi mi ero dimenticato di fare. Però, visto che io tutti i giorni e anche oggi vi farò sentire la lista dei miei desideri, quelle che mi sono messo lì e piano piano l'ho compilata tutta, appunto, visto che la faccio sentire tutti i giorni, gli ascoltatori, alcuni di voi, hanno cominciato a scrivermi i loro desideri. L'hanno fatto al 349-238-6666 oppure avendo tutto @radio24.it. Allora ho cominciato a fare così, li ho messi insieme e questo è quello che ne è uscito. Paolo, suonare la mia chitarra sul palco dei Pink Floyd. Marta, trasferirmi in campagna e avere 3 figli, 2 cani e un marito. Antonella, incontrare George Clooney senza la canalis tra i piedi. Vittorio, correre la maratona di New York sotto le 3 ore. Ettore, imparare lo spagnolo. Stefano, trovare una casa a Roma che costi meno di 4.000 euro al metro quadro. Giorgio, girare un film e vincere il Festival di Cannes. Claudia, avere il sole a Milano 8 mesi all'anno. Tommy, vivere con niente. Carlotta, farmi a piedi tutto il cammino di Santiago. Giacomo, arrampicarmi a mani nude sulla Tour Eiffel. Chiara, inventare un rilevatore di disonestà. Paoletta, ottenere un contratto a tempo indeterminato. Giovanni, volare con il mio aliante sulla rotta delle migrazioni. Mario, vedere mio figlio senza crediti scolastici la prossima estate.